Tour, the moving station. Present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavan and welcome to TamTam Europe, la vostra pillola di rock e altro che è in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Ci sono notizie di Björk. Forse avete sentito che il governo islandese le ha regolato l'isola Helidey per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per l'Islanda. Ed il primo film di Björk, Dancer in the Dark, sarà presentato in anteprima al Cannes Film Festival a settembre. Lei interpreta il ruolo di un'immigrante ceca che guadagna poco per lei e per i figli, lavorando in una fabbrica americana. Björk ha anche scritto quasi tutta la colonna sonora del film con il regista Lars von Trier. E c'è molto atteso per le sue collaborazioni con Tom York dei Radiohead, con quale ha registrato un duetto per la soundtrack. TamTam Europe on Radio Tour, the moving station, that's all for now. And remember our website www.radiotour.it. Da Fergal Cavan è tutto per il momento, vi lascio con York e Alarm Call. Alla prossima. TamTam Europe. Con Alarm Call, un grande successo che è stato qualche tempo fa. Invece quest'altro progetto, un altro disco di Björk, grazie a Fergal, la nostra redazione di Londra, stavo dicendo federazione di Londra, redazione di Londra, un altro appuntamento con TamTam Europe sulla Radio Movimento 22:17. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ci risentiamo subito dopo con JT Company. Radio Tour, the moving station, present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavan bringing you the best news in rock and non solo sul TamTam Europe. Tre pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. È stato visto ultimamente ad un festival per David Bowie il cantante dei Placebo, Brian Molko, dove dicono stava cercando l'ispirazione per il terzo album dei Placebo, che uscirà quest'anno. Un spokesman dice che the first album was the party, the second was coming down from the party, the third is going out again. Alla festa Brian sembrava stesse poco bene, stanco e confuso, perciò chissà se i Placebo riusciranno a fare un album in stile festeggiamento. Staremo a vedere. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci alle 081 790 1411 o inviate un messaggio alle 0348 2438 888. Vi lasciamo con i Placebo e Pure Morning, mattina pura. Dal momento che sembra sembra che il cantante non ne abbia avuto da un bel po'. Da Tam Tam Europe e Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe, pelle di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. E facciamo un salto a Forlì, luogo di nascita dei giovani Naftalina. E il loro stile è spiegato dal cantante Peter: ho preso il punk dall'armadio dove era Naftalina da anni, gli ho dato un spolverato aggiungendo un suono un po' più melodico e testi in italiano. Questo potrebbe anche spiegare la scelta del loro nome, che dicono è stato scelto per puro caso. Peter continua a raccontare che i motivi dei Naftalina iniziano con tre accordi e finiscono con tre accordi, sempre gli stessi per strofa e ritornello, l'ho imparato dai Nirvana, e si sposano con testi semplici e immediati, un musico anti-arme, cioè anti-tarme, cioè allegra e spensierata. Noi su Tam Tam Europe vi facciamo sentire Non salti con me, ti voglio tanto bene. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 14 11 o inviate un messaggio al 03 48 24 38 888. Vi lasciamo con Naftalina e Non salti con me. Da Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, pelle di rock messa in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Avendo lasciato la scuola, ci torneresti dopo qualche anno? Mick Jagger ha deciso dopo quasi 40 anni di tornare a Dartford Grammar School, del quale ha rivelato che ha odiato intensamente per 7 lunghi anni, gli anni della sua adolescenza. È tornato per inaugurare il nuovo laboratorio d'arte che porterà il suo nome ed è stato realizzato con un investimento di più di 8 miliardi di lire. Nonostante il fatto che Jagger è uno degli uomini più ricchi del mondo, era troppo nervoso per tornare a scuola da solo e si è fatto accompagnare dai suoi genitori, sua ex moglie Jerry Hall e tre dei loro figli. Vi ricordo il nostro indirizzo email per segnalarci brani o gruppi da ascoltare in Tam Tam Europe, fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Kavanagh vi lasciamo con un brano dedicato a Mick Jagger, che ha ammesso di aver sempre studiato poco a scuola, ma adesso si vede che non aveva molto bisogno. Sta benissimo. Da Day One, questo è Sto Bene, I'm Doing Fine. Alla prossima. Tam Tam Europe. Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to see it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about ourselves, and it stops right there. I'm lost looking in a sea of faces everywhere. Now where did she go? I need to find her quickly to nurse my insecurity. I'm lonely amongst these people, and I need to feel love, and I need to feel part of something. Is that strange? And why are they reluctant to talk, and why do they look alone when they walk? I see a face but no names. But despite my confusion, I've come to the conclusion that people need people. It's something I forget, but I've come to accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No, no way, no way. I'm on my own now, and doing fine. No, no, no way, no way. I'm on my own now, and doing fine. And anyone can give money to a good cause, but it stops right there. And anyone can sign a petition to change a law, but it stops right there. And we can believe in socialism or any theorism, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about yourself, and it stops right there. But I'm not part of this, I'm not seeing what they're seeing. I'm staring at the ceiling to the world, to see what is lying on the horizon. Maybe I'll see you again someday, girl. But despite my ordeal, I still then we forget. But we must accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? Day One alle 17:15 minuti, singolo che abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Fergal per Tantam Europe. Facciamo una piccolissima pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. SPOT Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tantam Europe. In questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno raccogliamo le notizie preparate dalla nostra redazione di Londra e ve la proponiamo con rock e non solo. Sta avendo molto successo in America il film High Fidelity, tratto dal libro di Nick Hornby. Questo libro è stato di grande influenza per gli Alma Magretta nella composizione del loro nuovo album 4-4. Raiz, il cantante, spiega che è l'introspezione, la riflessione sulla crisi delle relazioni personali che ha influenzato la parte testuale. A tale proposito suggerisco la lettura di Alta Fedeltà di Nick Hornby, sottolinea Rice, un libro che spiega una generazione spaventata, quella degli attuali trentenni, incapaci di fare scelte importanti e sempre dibattuto tra sentimenti contrastanti. Our website is at www.radiotour.it. Send me an email if there's anything you'd like to hear. Dal Fergal Kavanagh on Tantam Europe on Radio Tour The Moving Station è tutto. Vi lascio con gli Alma Magretta e Alta Fedeltà. Alla prossima! Tantam Europe. Yeah. singolo degli Alma Megreta che abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Fergal in Tantam Europe, quindi ringraziamo lui e la nostra redazione di Londra londinese. Alle 17:17 minuti su Radio Tour The Movie Station insieme a Tetsuya che ci segue regia, siamo me che sono Jackie, buonasera a tutti, facciamo una piccola pausa e tra poco ci collegheremo per l'ultima consegna del bacio in tour. S-P-O-T. Questo è tutto da Tam Tam Europe, dalla nostra news desk a Londra e da Fergal Kavanagh. Vi ricordo il nostro indirizzo email fergal@radiotour.it e vi lasciamo con Bjork in Italia a settembre e questo è Alarm Call. Alla prossima! Tam Tam Europe. Del suo pezzo di So Quiet, anche perché è una cover, se non sbaglio, non me ne vogliate, degli anni 50, comunque è una gran bella storia. È sempre stata un po' alternativa nel modo di proporsi musicalmente parlando. L'abbiamo ascoltata con Alarm Call, grazie a Fergal che ce l'ha proposta da Londra. Vi facciamo una piccolissima pausa e tra poco ci sarà l'ultima consegna del bacio in tour. S-P-O-T. Spot. Dalla nostra redazione a Londra e dal Fergal Kavanagh vi lascio con col brano dedicato a sua madre. Questo è Lenny Kravitz e Thinking of You. Alla prossima. Tam Tam Europe. Tell me, mama, would you live your life the same? Or come back in? su Radio Tour The Movie Station, il singolo che abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Fergal. Ringraziamo lui e la nostra redazione di Londra. Facciamo una piccolissima pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. S-P-O-T Spot. Radio Tour, the movie station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on Tam Tam Europe on Radio Tour, the moving station, bringing you the best news and altre cose dalla nostra redazione di Londra. E arriva la notizia che Fatboy Slim e Macy Gray hanno scritto e registrato due canzoni insieme a Los Angeles. Secondo Macy, i risultati sono molto diversi dallo stile normale di Slim, raccontando che uno, intitolato Where There's a Way, è like a mid-tempo dance tune. The chorus is like gospel and then there's like a Hare Krishna sample in it. It's wild, it's a trip. E questa non sarà l'unica collaborazione che Fatboy Slim farà nei prossimi mesi. Per il suo nuovo album girerà il mondo a registrare con artisti diversi. L'album dovrebbe essere pronto per la fine dell'anno, però adesso su Tam Tam Europe ci accontentiamo con un brano del suo ultimo album, You've Come a Long Way Baby. Se ci volete segnalare i gruppi da ascoltare, chiamate alle 081 790 1411 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888. Do Tam Tam Europe e do Fergal Cavanaugh, vi lascio con Fatboy Slim and Right Here Right Now. Alla prossima! Tam Tam Europe. Right here, right now. con Fatboy Slim, grazie a Fergal Cavanagh, che è la nostra redazione di Londra, sempre a disposizione per i vostri suggerimenti, consigli, pareri o domande, curiosità all'indirizzo mail fergal@radiotour.it. Le 22:17 minuti dalla nostra redazione di Londra riprendiamo la linea nella nostra sede centrale, ci prendiamo anche una piccolissima pausa di pubblicità. Prima abbiamo ascoltato anche Jennifer Lopez con Let's Get Loud, ma dopo la pubblicità per noi c'è anche Santana con Corazon Espinado. S-P-O-T. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. The Rock messo in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. I Blair suoneranno a Scott Walker's Meltdown a Londra il 2 luglio, ma c'è molto speculation che il cantante Damon Albarn sta lavorando su materiale per il suo primo album da solista. È in sala di registrazione da qualche settimana e arriva la notizia che ha registrato con Dan the Automator, già produttore di Primal Scream. E Graham Coxon, chitarrista di Blur, ha completato il suo secondo album da solista. Ricordiamo che nel 98 ha pubblicato The Sky Is Too High e ha promesso che questo nuovo album sarà accompagnato da un tour come solista. L'album si intitolerà The Golden D e Coxon ha cantato, suonato tutti gli strumenti sul disco e l'ha anche prodotto. E Alex James, il bassista di Blur, ha scritto l'inno della squadra nazionale di calcio dell'Inghilterra per il campionato europeo di quest'anno, mentre Dave Rowntree, batterista, sta creando animazione per MTV. Tutti impegnati quindi in tutt'altro che i Blair e il loro gruppo. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Cavanagh, vi lascio con la voce di Graham Coxon dai Blair sul loro brano Coffee and TV. Alla prossima, Tam Tam Europe. Thank you. station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro, e preparate della nostra redazione di Londra. Allora andiamo in Danimarca per segnalare il gruppo che ha appena vinto ben 6 Grammy danesi, tra cui Best Danish Group e Rock Album of the Year. Parlo dei Kashmir. Questi tre ragazzi suonano insieme dal 91 e hanno appena pubblicato il loro terzo album The Good Life, prodotto dal produttore abituale dei Pink Floyd. Il brano che proponiamo sul Tam Tam Europe è descritto come monumentally uplifting. Si intitola Graceland e parla di un prigioniero del proprio desiderio. E questo è il primo singolo che esce per loro in Inghilterra, quindi chissà, forse sentiremo molto più spesso parlare di questi Kashmir. Vi ricordo il nostro sito internet www.radiotour.it e vi saluto con Graceland dei Kashmir. Da Fergal Kavanagh della nostra redazione di Londra, alla prossima! Tam Tam Europe.